in primo piano. Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24. Alle 7:33 minuti iniziamo la rassegna stampa dei quotidiani, iniziamo dal Sole 24 Ore come di consueto. Apertura dedicata alle scuole, scuola, lezioni fino al 30 giugno. La proposta del governo oggi alle regioni prevede anche turni pomeridiani, più risorse per il personale ATA, militari impiegati per i tamponi agli studenti. Un rientro in aula d'impatto, diciamo, per i ragazzi, sarà almeno così si prospetta. Bus privati per assicurare il servizio pubblico, militari per effettuare i tamponi agli studenti, saracinesche dei negozi su dopo le 10, scuole aperte di pomeriggio grazie a ingressi e uscite scaglionati, allungamento del calendario scolastico fino a fine giugno, risorse aggiuntive per il personale ATA che lavorerà di pomeriggio e per il TPL. Sono le principali linee di intervento, alcune a carico delle regioni, altre sulle spalle dello Stato, previste in un documento del governo che sarà oggi sul tavolo di una cabina di regia straordinaria sulla riapertura degli istituti scolastici per il 7 di gennaio. Ne scrive Eugenio Bruno sul Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che come fotonotizia porta sicuramente una rivoluzione nel mondo dello sport. Acquisiti i diritti per le dirette del mercoledì sera della Champions League, Amazon li ha acquistati, quindi sicuramente un nuovo player, come si suol dire in questo campo. Poi, sempre dalla prima del Sole 24 Ore, vorrei segnalare, ci sono davvero tantissimi temi diversi, perché le prime pagine che poi vedremo di altri quotidiani sono un pochino più, diciamo, intonate tra di loro. Il Sole propone veramente tanti argomenti diversi. Si parla ovviamente di manovra stop alla sugar tax, la UE dal recovery fund anticipabili altri 6 miliardi. Si parla di cashback, la BCE striglia infatti l'Italia, effetti negativi dovevate avvertire. C'è stata infatti una lettera che è arrivata dalla Banca Centrale Europea sul già complicato avvio del cashback in Italia. In una lettera inviata al Ministero delle Finanze, al Ministro delle Finanze Gualtieri, la BCE infatti stigmatizza il fatto di non essere stata messa al corrente dell'iniziativa e spiega che l'introduzione del programma cashback per strumenti di pagamento elettronici sia sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti. Il ministero ribatte che la lettera da Francoforte non desta né preoccupazione né ripensamenti rispetto all'iniziativa del governo italiano, e ne scrive Isabella Bufacchi. Un altro tema: Nuova Zelanda, rimbalzo record del PIL a più 14, ed è decisamente un unicum, direi planetario, quello della Nuova Zelanda, che dopo aver domato, diciamo così, l'epidemia di Covid con delle misure molto restrittive nel mese di maggio, sembra essersi sbarazzata dal coronavirus, e questo ha rilanciato l'economia e appunto una crescita del PIL a più 14, quella che si registra adesso a fine anno. Col Sole 24 Ore oggi c'è anche un inserto in aggiunta, volendo, dedicato interamente alla Brexit al via, istruzioni per l'uso. È uno di quei manualetti del Sole 24 Ore nel quale veramente si trova di tutto, come appunto per sul tema Brexit. Si parla di dogane, le operazioni a cavallo dell'anno restano intra UE, di partecipazioni, di giurisprudenza, fino al recesso la Corte Europea impone il diritto europeo, e di lavoro, con il tema delle assunzioni in base ai punti, con sponsor e competenze, appunto dedicato alla Brexit, in edicola con il Sole 24 Ore. Andiamo alla prima del Corriere della Sera. Italia zona rossa, Natale in casa, questo è il titolo. Le regole per le feste: chiusi bar e ristoranti, visite a parenti e amici solo in due più gli under 14. E lasciandoci un po' nel dubbio se visitare i nonni o lasciare il figlio quindicenne a casa da solo, insomma, questa poi dopo è la questione, visti i numeri e le scelte che sono state fatte. Ma al di là del mio commento personale, sulla prima del Corriere della Sera altre questioni in rilievo sono sicuramente quelle delle nostre fragilità in Africa, come scrive Goffredo Buccini. Infine l'Europa si desta, beh, almeno un pochino, sia pure in ritardo, tra contraddizioni e ipocrisie. È senz'altro da salutare con favore la risoluzione sui diritti umani varata ieri dal Parlamento europeo, soprattutto perché è ispirata da un nome, Giulio Regeni, vero simbolo di quei diritti calpestati, e fa esplicito riferimento all'inchiesta appena conclusa dalla Procura di Roma sul calvario del ricercatore italiano. Inoltre perché altrettanto chiaramente individua l'autentico imputato politico del J'accuse europeo, Abdel Fattah al-Sisi, il rais egiziano che, secondo Human Rights Watch, ha mandato a morte 3.000 persone dal 2013 e ne detiene 60.000, spesso con ferocia, senza imputazioni plausibili, come nel caso di Patrick Zaki, l'altra molla di questa mobilitazione degli europarlamentari. In qualche modo il governo di Roma, misurando la propria inadeguatezza, porta a casa l'obiettivo dichiarato di internazionalizzare il caso Regeni. E poi c'è l'altro caso che riguarda l'Italia e in questo caso la Libia, ne scrive Francesco Verderami. Scelte, retroscena e tensioni sul blitz in Libia. 48 ore prima che Conte e Di Maio volassero da Haftar, il premier della Libia al-Sarraj era ancora a Roma. Così la storia che ruota attorno alla liberazione dei pescatori italiani rischia di trasformarsi in una pochade. Non è chiaro il motivo per cui il rappresentante del governo libico riconosciuto dall'ONU abbia soggiornato vari giorni nella capitale. La tesi sostenuta da fonti accreditate è che le autorità italiane abbiano voluto informarlo per tempo dell'operazione in programma Bengasi. Chissà se sapeva anche che la missione sarebbe stata guidata dal premier e dal ministro degli esteri della settima potenza mondiale e che i due avrebbero stretto la mano al suo acerrimo rivale in Cirenaica e che addirittura l'incontro sarebbe stato ufficializzato. E poi prosegue la disamina di Francesco Verderami, che giunge anche a riflettere sull'opportunità che il Premier Conte continui ad essere al vertice dei servizi segreti, con ovviamente tutti i passaggi intermedi. Io adesso ho saltato le tappe di questo articolo. La Stampa, Natale in rosso con due parenti, Conte scelte dure ma necessarie, deroghe anche per coppie di amici, decreti sicurezza, rissa al Senato. Così il riassunto della giornata di ieri sulla Stampa. Al centro pagina due fotografie, una della vicepresidente eletta americana Kamala Harris e l'altra della principessa di Monaco Charlene, moglie di Alberto. E la prima chiamata in causa ovviamente per questioni di politica degli Stati Uniti. Il presidente eletto Joe Biden ha annunciato di volere organizzare entro il 2021 un summit per la democrazia, vertice dei paesi liberi. E l'altra invece, la principessa di Monaco, si parla del sogno di Cenerentola che può trasformarsi in fregatura. Sono molte le favole moderne che naufragano con un misero e vissero tutti felici e scontenti. E quindi due temi decisamente opposti per queste due signore in copertina della Stampa di oggi. Abbiamo tempo anche per La Repubblica, prima della pausa per la viabilità. Aggiungi due amici a tavola. Io non ve li sto leggendo, ma ovviamente dentro ci sono sempre i prontuari su quello che si può fare e non si può fare. Li troverete ovunque, qualunque quotidiano decidiate di acquistare e leggere oggi. E le sentite ovviamente anche nei GR di Radio 24. Aggiungi due amici a tavola, il titolo di Repubblica. Il governo apre alle visite dei conoscenti, deroga per gli under 14 fino all'Epifania, zona rossa nei giorni festivi, arancione negli altri. Conte dice: il virus circola ovunque, gli esperti sono preoccupati, subito i ristori. Il presidente Mattarella: i popoli si uniscano per sconfiggere il Covid. Sempre dalla prima di Repubblica cogliamo il titolo almeno e qualche riga del commento di Claudio Tito, una questione di rispetto. Adottare misure severe e forse anche impopolari per provare ad arginare l'epidemia non poteva e non può essere oggetto di discussione. La situazione è drammatica. Ci si può interrogare su alcuni aspetti dei provvedimenti, ma non sulla ratio che sta alla loro base. Quel che invece può e deve essere dibattuto sono le modalità con le quali tutto è avvenuto. In particolare c'è una parola che va sottolineata: rispetto. I cittadini avrebbero meritato più rispetto, perché non è civicamente accettabile che i divieti imposti dal governo siano stati comunicati al paese, appunto ai cittadini, con questa tempistica e con questa confusione. Mancano 5 giorni alla vigilia di Natale, siamo nel mezzo di un weekend di fuoco per chi torna a casa, lavoratori e studenti fuori sede, ci sono famiglie divise e anziani in difficoltà, sospesi in un gigantesco tempo della precarietà. E questo l'incipit del commento di Claudio Tito. Dalla prima di Repubblica vi leggo anche due, almeno anche qui, i titoli ed incipit di due articoli: Senza consenso e stupro, la vittoria delle donne danesi. Con 96 voti a favore e nessun contrario, il Parlamento danese ha approvato ieri la legge che penalizza il rapporto sessuale senza un consenso esplicito delle persone coinvolte. Se non c'è accordo, si tratta di stupro, ha dichiarato il ministro della giustizia. E l'altro articolo sicuramente da leggere: la campionessa scomparsa nella guerra etiope di Emanuela Odisio, missing, scomparsa, Letesembel Ghidei, la regina del mezzofondo, non si trova. Contatti interrotti. È la primatista mondiale dei 5.000 metri, medaglia d'argento ai mondiali di Doha nei 10.000 ed è sparita nella guerra che insanguina l'Etiopia. Bene, abbiamo la viabilità, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. E proseguiamo con il quotidiano nazionale. La chiusura di Natale è un pasticcio, così titola il quotidiano nazionale nelle sue varie edizioni poi regionali. Il decreto solo in tarda serata, locali chiusi, spostamenti limitati dal 21 dicembre, ma tra deroghe e cavilli è subito caos. Dalla vigilia 6 gennaio 10 giorni in lockdown e 4 in zona arancione. A casa massimo 2 ospiti, non si contano gli under 14. Ci sono poi le mappe anche qui, e dalle città il quotidiano nazionale segnala il fenomeno della fuga al sud dei prof, scuole chiuse prima e orari ristretti, ed effettivamente se ne dà conto anche. Se ritorno indietro sul quotidiano, ecco, sul Corriere della Sera ne scriveva anche Massimo Gramellini, riferendo di una conoscente o di una lettrice, adesso non so, che appunto ha ricevuto dalla scuola la notizia che la scuola sospenderà le attività didattiche nei giorni 21 e 22 dicembre per scivolare dolcemente al giorno 23, quando cominceranno le vacanze vere. Cioè ha saputo che suo figlio, già orfano nei mesi scorsi di un numero insopportabile di lezioni, non entrerà più in classe fino al 7 gennaio, e la causa di questo è permettere agli insegnanti di ricongiungersi ai familiari lontani. E sicuramente, insomma, la scuola continua a soffrire eccessivamente di questa situazione, per un motivo o per un altro, sicuramente la più bistrattata a mio avviso. Andiamo al Manifesto. Fotonotizia: è andata in porto, finisce l'era dei decreti sicurezza di Salvini, e qui c'è un momento della bagarre in aula, come si suol dire, di ieri. Il Senato ha approvato nuove norme sui migranti, che mantengono però le multe per le navi delle ONG. Scontro in aula con la Lega, 2 feriti, il PD squadrismo, intanto al largo della Libia affonda un barcone. Strage di bambini. E così la notizia di apertura per il Manifesto. Sul Giornale: avviso di sfratto a Conte, titolone. La Presidente del Senato: troppi errori del governo. Poi ancora feste e lockdown a casaccio, caos cashback, la BCE contro l'Italia, dovevate avvisarci. Di questo abbiamo letto su Sole 24 Ore. Mi soffermo sull'articolo del direttore Sallusti, che riguarda la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, che, scrive Sallusti, nel tradizionale incontro con la stampa ha criticato duramente il governo Conte per la gestione dell'emergenza Covid. È una notizia in sé, ma lo è ancora di più perché stiamo parlando della seconda carica dello Stato dopo il presidente Mattarella, il quale certamente non ha appreso la cosa dalle agenzie, ma conoscendo come funzionano le cose da quelle parti era stato precedentemente informato e non ha opposto obiezioni. Non vado quindi troppo lontano dalla verità dicendo che la critica della Casellati è condivisa dal Quirinale e suona come un avviso di sfratto all'attuale premier. l'avviso di sfratto che passa attraverso Matteo Renzi, e quindi questo mi consente di correre verso un pochino più avanti, diciamo, nell'editoriale di Sallusti. Di quale piano Renzi sia parte lo scopriremo nelle prossime settimane. Un governo Draghi può essere l'ex governatore della BCE, non fa nulla per smentirlo e il suo silenzio, ci sbaglieremo, suona come una conferma di questa ipotesi, che unito alla freddezza del PD nei confronti di Conte, alla cautela di Berlusconi nel dosare le parole, all'apertura di Salvini a ipotesi di governissimo fino a poche settimane fa impensabili, scusate, è la dimostrazione che siamo arrivati al dunque. E Maria Elisabetta Casellati ieri ci ha aggiunto un carico da 90. Insomma, c'è vita oltre a Conte, a un governo ormai prigioniero delle sue contraddizioni. Andiamo al Fatto Quotidiano a questo punto. Conte sfidi Renzi e si ritorna quindi sul tema. Con la cura Salvini è il sogno di migliaia di adesioni all'appello di Padellaro. Un bel vaffa day, i lettori del Fatto invitano il Premier a portare la crisi in Parlamento e strigliare il capo di Italia Viva come quello leghista il 20 agosto del 2019. Questo è il Fatto Quotidiano sulla questione Renzi, che poi appunto viene approfondita pagine 2 e 3. A pagina 4 dal Fatto Quotidiano vi leggo un passaggio di un articolo di Natascia Ronchetti che riguarda invece il vaccino e il caso degli operatori sanitari Novax, con punte del 30% in Piemonte, apprendiamo. Quindi si parla di tutti i piani vaccinali, di come le regioni si stanno preparando, e poi scrive Ronchetti: tutto bene ma solo fin qui, perché si sta profilando un altro problema, quello degli operatori sanitari medici, infermieri, operatori, sociosanitari, tecnici, che non vogliono essere sottoposti alla vaccinazione. La situazione a macchia di leopardo. In Piemonte, per esempio, l'adesione alla campagna non è affatto massiccia. Riscontriamo scetticismo, perplessità, dubbi sull'efficacia del vaccino, spiega Roberto Testi, responsabile del Dipartimento Prevenzione dell'ASL Città di Torino. Alla fine un 25-30% degli operatori non si vaccinerà. Problema analogo a quello della provincia autonoma di Bolzano. L'ASL ha già mandato quasi 3.000 email per sondare la disponibilità. Fino a ieri aveva risposto solo il 30% del personale, il 40% aveva detto no, con due rifiuti ogni 5 tra tecnici e infermieri. Andiamo a Libero. Il governo è impazzito, la gente disperata fugge, nuovi divieti incomprensibili ed inutili, da giovedì bar e ristoranti chiusi fino al 6 gennaio, tutta Italia torna zona rossa nei prefestivi e festivi, vietato uscire dal comune ma si potrà andare a trovare i nonni, che barzelletta. Scatta l'esodo dal nord, treni e aerei pieni, migliaia di auto sulle strade. E di questo scrive la posizione di Libero è chiarissima dai titoli, scrive Pietro Senaldi. Qui anche compare una fotografia della Presidente del Senato Casellati, la Casellati su Conte, fallisce sul vaccino. Per vedere un'alta carica dello Stato maltrattare con stile istituzionale, ci mancherebbe, Giuseppe Conte in pubblico, gli italiani hanno dovuto attendere ieri, ossia la cerimonia nella quale il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha avvertito che il tempo dei giri di parole e dei giudizi, immagino che si scriva, è finito sicuramente. Andiamo alla Verità. Arcuri continua a combinare guai. La società cinese da cui il commissario ha importato le mascherine è nata 5 giorni prima della firma del contratto e ha una proprietà collegabile a una ditta milanese. A che sono servite le commesse milionarie per i mediatori? Si domanda quindi la Verità. Non tornano i conti neppure sulle siringhe. Compriamo da Hong Kong dispositivi più cari dei nostri. È necessario? Ne scrive Giacomo Amadori, almeno sul tema della società cinese. Il Mascherina Gate ogni giorno si arricchisce di un nuovo gustoso capitolo. L'ultimo l'ha scritto la trasmissione di Rete 4 Fuori dal Coro, condotta da Mario Giordano, che ha scoperto che la società cinese Luokai Trade, che ha fornito al commissario straordinario Arcuri 571 milioni di mascherine è nata 5 giorni prima della firma del contratto, ma soprattutto sarebbe, come vedremo, in qualche modo riconducibile a un'imprenditrice cinese radicata in Italia. La 39enne Kue Pan, titolare a 7 milanese della Athena Engineering. La domanda che sorge spontanea è quindi la seguente: perché i cinesi hanno pagato 63,5 milioni di provvigioni ai due intermediari italiani e a uno ecuadoriano, se quella che sembrava quantomeno una loro stretta collaboratrice vive e lavora in Italia? Ed è sicuramente un'inchiesta da seguire, per vedere come andrà avanti, come sfocerà, come e cosa verrà confermato. Andiamo nell'ultimo minuto, credo, su Avvenire. Natale solo con i tuoi, il decreto zona rossa dal 24 al 6 di gennaio, in festivi e prefestivi, sia le visite di 2 persone e di minori. RT e tasso di positività sono ancora in salita. Il 27 dicembre le prime 10.000 fiale di vaccino in Italia. Un'altra strage di bambini nell'Afghanistan senza pace, l'altro tema che viene affrontato sulla prima pagina di Avvenire. Almeno 15 piccoli uccisi, ma avanza la trattativa con i talebani e passi piccoli ma reali al cauto ottimismo delle Nazioni Unite, scrive Luca Miele, ma i numeri catturano la realtà di un negoziato tra Kabul e i talebani lento, paludoso, irto di difficoltà. Fa da tragico contrappunto una quotidianità senza pace. In Afghanistan si continua a morire ogni giorno e la mattanza non risparmia i bambini. L'ennesima strage è avvenuta ieri nel villaggio di Agoyan, nella provincia di Ghazni, nell'est. Ancora incerta la dinamica, certo è il numero delle vittime, 15 bambini e altre 10 persone rimaste uccise. Chiedo regia, ci dobbiamo fermare? Sì, c'è GR24, ci ritroviamo alle 8.30 con Si può fare. Buon ascolto da Laura Bettini.